si spiega? Come si spiega questa cosa? È un inghippo, Ma non è che in macchina il cavo del microfono fa una piega particolare, magari? Oh, sta normale, il baracchino praticamente risulta frontale, non prende nessuna posizione strana, è frontale come in casa. Beh, molto strana cosa, Scoggia, hai provato a aprire tutti i parametri, nel senso darle l'eco, darle tutto quello che devi dare? Sì, allora, come era regolato qua era regolato in macchina, adesso per dire in macchina questo è un bombo perché si sente un bel bene, capito? C'ha proprio un volume altissimo, poi tutto male che vada, rimetto una colonnina esterna, cosa, però cazzo, volevo piazzare questo in macchina invece non fa, l'altro funziona perfettamente, il Cobra funziona bene, quindi non è questione di alimentazione. Cazzo, davvero un inghippo, davvero una cosa allucinante, molto strano, non mi è mai capitato neanche a me una cosa del genere, nel senso di provare una radio da una parte funzionante e portarla dall'altra e non funziona. Non so cosa dirti già, è la prima cosa che sento. Franco è parito d'ora. Non lo so già, non so cosa dirti. L'unica prova che puoi fare è appunto darle tutta la potenza, darle più gas possibile e vedere se si sblocca qualcosa. Ma stai arrivando benissimo qua. Adesso sono senza nulla, mi sono liscio, sto uscendo esattamente con un watt e mezzo qua, un watt e mezzo. E sei in macchina o a casa? No, sono a casa, in macchina non mi funziona. Sei 9-10 abbondante, figurati con un watt e mezzo, vabbè, sei di fronte a me. Questo che problema è? Ogni tanto veniva una picchia baracchini. Ma la devo riprovare, non è possibile, grazie. Si accende tutto, capito? Però rimane la luce fissa, tu premi la portante come se non la premessi. Ma provate l'altro baracchino già. Sì, con l'altro esce, col Cobra esce. L'ho provato in macchina, il Cobra, stavo parlando sino a poco fa col Cobra. Che strano, come che vada in una specie di protezione. Ne sai, ne capisci tu, io non so cosa dire. E questo qui è anche bello a mettere in macchina perché è tutto illuminato, è tutto bello. Oh già, chiama Gigi, cazzo, chiama Gigi, lui è esperto in quei baracchini. Ah, Gigi è un siciliano, loro li conoscono bene quei baracchini. Può darsi davvero, come ha detto Luca, che vada in un coso di protezione, e va resettato, cosa ne so, visto che è modificata quella radio. Non so cosa dire, pensare, dai. Vediamo un po', adesso cosa si buffa. La rimetterò in macchina domani mattina, la riprovo, non devo arrendermi così. Ma se vuoi una consulenza più performante, più sicura, chiama Gigi, lo sai, lui è il maestro dei 48. Poi tra l'altro te l'ha data anche lui, ma lei l'ha fatta anche a lui, c'ha un sistema di protezione, quella è una radio modificata, è stata modificata da un professionista, quindi può darsi che abbia una protezione che ti fa quella cosa lì, non possiamo dire che è un difetto, capito? Può darsi sia proprio una protezione della radio stessa. Che vuoi che ti dica? Non usarci. E pare che abbiamo andato a capo e torniamo a fare macchina. E perché già magari c'ha davvero una protezione come ha detto Luca, perché mi ha detto che c'hai 1.3 e 1.4 di stazionari, magari va in protezione la radio col sistema che c'ha, capito, col sistema accolto, non lo so, devi chiamare a Gigi, solo lui ti può dare notizie più certe di noi, perché quelle radio lui le conosce molto meglio di noi. Ma le stazionarie sino a 1.5 vanno bene, io ho 1.2 su 10, 1.1, 1.2, 1.3 ce li ho sugli altri canali, ma su 10 c'ho 1.2, non so cosa pensare, dai, vediamo un po', la ritolgo e la riprovo, non mi devo arrendere così. Provala a vedere, sì vabbè, ma il Cobra non è Colt. Quello essendo Colt, ti ripeto, può darsi che abbia un sistema di protezione proprio per far sì che ci sia la protezione della radio, del sistema Colt. Non lo so, devi sentire a Gigi già. A me non mi è mai successo col mio 48, quello che c'avevo io uguale a quello, il gemello di quello di Gigi, che poi ho dato a chi associa Gianni Dischetti. L'altro che c'ho, il 48 è normale, quindi non me ne crea problemi. Prova già, non ti arrendere, ma però. Beh, certo che è una cosa strana, a dire, potrebbe essere l'alimentazione, non è a 13,8, però perché non lo faccio andare in trasmissione perché non ha quell'alimentazione lì, quella tensione lì, Lu, può darsi come hai detto tu che ci abbia, siccome quella radio è cotta, è modificata, c'ha un doppio modulatore, c'ha un'alimentazione a parte per il sistema a coda, che vada in protezione, che vada in protezione e non lo fa uscire, non lo so, bisogna sentire uno più esperto, io non so cosa dire, direi stronzate, quindi preferisco star zitto perché è una cosa che non ho mai sentito. Franco, ci sei? Aiuto che poi chiudo. Se la scendi lei è andata a toccare il trimerino, non si intende più. Strano, anche se lo chiudi il trimerino sì, si abbassa, ma di radio esce comunque. Non lo so. No, io l'ultimo passaggio che ho sentito però non c'era apertura del radio, Io ho sentito la mia modulazione quando lui mi ha registrato, Franco, ma c'è un'apertura del radio che è una cosa allucinante. Lui non ce l'ha questa apertura del radio, nonostante sta usando la stessa identica roba mia. Ma tu c'hai un acuto che è simile al mio. Lo sai che chi comanda i microfoni è la voce. Lui c'ha la voce molto, ma molto più bassa, c'ha tonalità medio-basse, tu c'hai tonalità molto medio-alte, capito? Io sto usando la 3 più 3 ce l'ho a 2, col baracchino, già lo senti. Noi abbiamo un altro tipo di modulazione, tu sei sempre uscito bene con 60, con qualsiasi microfono sempre bene. Lui anche col C80 e il 60 non ha la modulazione tua, quindi dipende dalla voce, però stava uscendo bene poco fa. E il trimerino del compressore era chiuso, adesso vediamo quando lo apre. Aiufra! Cinco! Cinco ha detto che è andato a cattura di arbori. Ah sì, allora io mi voglio andare in vacanza. No, la sarà a me. Se dovrebbe essere. È una bella gnocca è quella. Ehi, ciao a te, compagna di Claudio. Franco che c'ha la corrente alternata e c'era anche Ginko. Buonasera a tutti quanti allora. Ciao Do, buonasera e ben ascoltato. Dai Lu, regolaglielo tu, vedi un po', intanto già lo sai meglio di me che lo devi fare. Io i parametri glielo dati, quelli uguali ai tuoi. Capito? Tutto il resto è acceso nel menu, sia il mic gain sia il compressore, cioè deve solo aprire leggermente il trimerino e poi lo senti a vedere se sta andando bene, dai. Che io mi allontano per preparare la pappa ai cani, se no mi migliora mi scebedeggia, adesso sono già le 7:30, non me ne ho manco accorto. Ciao, dove qua? Continuate voi, io rimango in ascolto, sono qua sul 23, voglio sentire la radio di Franco, vai dopo. Ok, ciao Fla. Luca, dopo ti devo chiamare al telefono. Mamma mia, quando mi dici così io ti temo. Sì, fa una chiamata di telefono. Non sono cose belle, non sono cose belle. E via. Chiama. Gatta, Franco! Piccolo! Cosa si dice? Cosa dirà delle cose? Io... alimentatori a tutti e due. Non so cosa dirti. Franco stava facendo dei controlli perché la radio ha preso una radio come questa, però non lo sentivo bene, diciamo, non lo sentivo come apertura del radio. Franco, ci sei? La radio come quello che c'è qui? Sì, l'ha presa uguale. Quella info, Veia. Buono, buono. Ma per quale ci vuole un bel alimentatore? Non ce l'ha. Guarda, io sto usando quello senza strumenti. Da 30 ampere e va benissimo. Lo tiene benissimo. Adesso sono con 20 watt di portante, se puoi immaginare. E va benissimo quell'alimentatore lì, costa 20 euro. Io sto aspetta, con lo strumento telefono e mi segna tutto, mi segna l'amperaggio e... Sì, ma infatti mi bastano 20 ampere a questo apparecchio, non è che ci vuole chissà che cosa. Allora andare. E poi Franco ce li ha gli alimentatori grossi? No, uno da 30 ampere. Così che, però non lo so perché non c'è più entrato, boh, stava regolando. Andiamo bene, andiamo. Tanto la gazzetta l'ha pagata. No, lo so. No, qualcosina in più. Qualcosina in più. E cosa stai dicendo? Ma non ti ha telefonato nessuno, perché a me ogni tanto mi mandano i cosi per il gommone e gli do il tuo numero. Aspetta, ti chiamo, ti faccio sapere una cosa. Ehi. Stava entrando Franco. Franco? Ma di radio già può uscire comunque, anche se non lo regola. Già c'è lo stesso di radio. Non lo so. Ma se ne senti bene in radio? Buonasera. Sì, buonasera. Io sono un fabbricante, quanto rimane mi 8? No, ieri eri più forte, mi stavo a baciare. Ma forse anche mi intendevo sì. E a 4 è il codice dell'amplificazione mi 8. Rimane della vincia, sì, sicuramente. No, è come la ieri che è oggi. Io ti dico qualche giorno più uscito. Ma senti trai a Franco o lui? No, ancora no. Sto facendo bene, cazzo, una bella modulazione, dopo gli stava gracchiando e Claudio gli stava dicendo per il trimerino di muovere bene il trimerino, evidentemente perché non usavano poco e niente, perché gracchiava. Sì, in quel momento l'ho sentito. Però non c'era apertura, perlomeno da parte mia non c'era apertura di radio, anche quando stavo aumentando il trimerino. Boh, io lo sentivo così, sì, c'era l'amplificazione, però non c'era apertura. Io mi sono sentito quando lui mi ha registrato e cambiava da giorno alla notte, però in quello non lo sentivo. Boh. Adesso mi senti? Prova a fare. Vedi a vedere. No, assolutamente, guarda, adesso ti registro, per me non ci sei. Aspetta che metto WhatsApp, dai. Il compressore inserito. Aspetta. Troppo bassa. Accendi il compressore, se ho troppo, lo tu. Ero un po' di moto, ho fatto l'argomento, un po' di moto e accendo il compressore. Il compressore devo attaccare. Grazie, grosso. Allora, l'ho già attaccato da me, settimana scorsa, il venerdì, dovevo pulire il carburatore, dovevo pulire. Allora l'ho attaccato, a pumpare e pulire il carburatore. Aspetta, guarda a vedere adesso, Luca. Sì, sei amplificato, quello sì. Ah, c'è un badonda. Questo non c'è un badonda. D'Agostini? Ah, Agostino c'è un badonda? Sì, ma boh, non lo so, c'è un ronzio poi. Ti sto registrando, fra. Vai, attacca e stacca. Cappa, guarda. Vedi a vedere così com'è. Diciamo che può guardare a me, nel puro. Esco col compressore e adesso sono senza, vedi, senza compressore. Sì, la differenza c'è, quello sì. Capo, e che differenza puoi fare? Ma cos'è? Non è chiaro la modulazione, cos'è? No, magari ti ascolto io così solo, boh, ma lo è. Aspetta un attimo che lo registro anche io, che vi faccio sentire come lo ascolto io a lui. Aspetta un attimo. Vedi, adesso sono col compressore, so. E boh, me la radio nel livello. Non lo so, poi è tutto da vedere la modulazione come l'ascoltate voi. Se voi metto il microfono originale, prova a premere la portata perché si sente un ronzio. Allora, il ronzio è la ventola della radio. Ah, come questa. Esatto. Sì, chiappa. Mi ti sta arrivando il video mio. Boh, io quando mi hai registrato tu, era più tutta un'altra cosa, boh, non lo so. Ripeto, magari sono io che ti ascolto così. Oh, sono anch'io che lo ascolto basso. Ha aumentato lei quel trimirino? No, la differenza c'è, è normale quando attacca e stacca il compressore, quello sì. Caspita, se non preghisso allora non lo saccio, non lo saccio. Dovrebbe essere più alto di radio, dovrebbe darli come questa differenza, tu vedi, adesso io sono senza compressore, adesso sono con compressore, cioè l'apertura c'è, capito? Vedi. Così addirittura il lago del coso, dello strumento manco si muove, del rosmetro. Sono in scala 20 di portante, fischiato sale a 30 senza compressore, a 60 col compressore fischiando. Ma tu sto usando un 18, sto usando il 60 come sta usando lui. Allora è troppo di radio, anche lui sta usando il 60. Lo usaci. Comunque la modulazione va bene, mio Lu, la radio va bene, non è bassa. No, non ho detto che è bassa, cosa c'entra? Vabbè, allora lo ascolto io così. Accusa appena appena, scusa. Vabbè, la modulazione tua è diversa anche dalla mia. Tu sei più acuti alti, c'hai di me. E tu vedi adesso questa modulazione qua. Vedi qua, adesso c'è il compressore. Vedi, dimmi. Franco. Ebbè, come è andato? Comunque, già cambia da senza compressore a compressore, già cambia la modulazione. Quello sì, deve cambiare, e se no è peggio dei baracchini. Non va di idea, Otto. Ho detto tutti questi problemi, ci faccio, non faccio, regito, si dà, mi deve passare un compressore nuovo, fa pulito. Ti la leggo gli altri sul compressore. E la vedo dopo un po'. Certo, non lo so, tu devi andare a il compressore, pure ai nonni, fa buffarlo. Beh, devi avviare un compressore, attacca un compressore in casa. Certo, boh. Se andiamo bene, andiamo, anche se il compressore. Adesso meglio di là. Sì, vabbè. Ma c'è stato, vuole regolare, sta tutto a regolare, dai, quella lì. Perché adesso lo sentivo bene anch'io, e io sto con l'antenino, ma lo sentivo bene. Sì, tu sai che stavo uscendo bene, chiaro e tutto quanto, ma era basso di radio, io l'ascolto basso. Sì, non è la sua solita sua radio, capito? Certo che, non lo so, qualcosa c'è senz'altro, no, verrà. Andiamo. Oh, compressore lo fa, almeno non fai problemi. Mi metto il compressore ai nonni, e pongo a buffa. Prova a collegare l'autoclave, Otto. Sì, così quando arrivi la bolletta me la baghi tu. Già, ho visto una bolletta con un coso attaccata, l'autoclave attaccata. Allora non vengo a colù, che pari in due. Sono andato a passeggio. Domani. Ehi, dai, non è che posso parlare io, dai. Ti sto ascoltando, dai. Implica di un compressore attore. Ehi, Beh, ce l'ha lui, non bisogna prestarglielo io, già ce l'ha. Sì, ma lui è più forte. Anche la piccolina è forte, capito? Capito come c'è Guido? Massimo, però piccolino ma sincero. Così è, so, piccolo ma sincero. Da 80 litri è. È piccolo ma è da 80 litri. Sì, tanti litri già da me, non è minore, no? Che la faccio 90 io? E uno da 100 in campagna, quello dice campagna da 100. Cazzo, ma è vecchio, Mio c'è già fatto 30 anni su un compressore, è sempre funzionale. No, no, questo compressore ce l'ho, ma è venduto Mario, ce l'ho, se no, 12-13 anni. Cazzo. È il mio più vecchio, è il mio più vecchio, è più di 30 anni ce l'ho io. Immagina, ce l'avevo anche prima di prendere la campagna aveva il villaggio 34 anni, e per la mia prima, che andavo proprio da lì dietro da Multinido, dalla tua scossarda. Mi sa che questo anche il coso, come si chiama, società di corrente. Sempre, dai. Cazzo, io sono in campagna, ce l'ho qua e serve sempre. C'è una gamma gonfia, figlio mi cambia la gonfieggia. Magari brutta, figlio mi ho preso la freddo e me la butto dal più. È comodo, dai. Da una parte è comodo, dall'altra no. Il corrente in magazzino e se mi chiude senza trattarlo. Beh, ti metti la corrente e lo puoi anche usare, che io lo uso perché ce l'ho la corrente, sennò non l'abbiamo manco bigliato. Ah, io ce l'ho giù, ma l'ho attaccato sotto una mano di scopo, l'ho operato. Ah, io già faccio, l'accendo sempre, ho però cosa l'altra, quasi tutti i giorni, non dico tutti i giorni, però l'accendo molto spesso, va. Solo di qualche anno devo usare, spesso che faccio da là. Vabbè, là, buon proseguimento. Luca, sentiamo il signor Battizio. Tutti i cracchi, Gio, mi sentiamo un microfono. Sì, ce ne ha tutto nella pentola, Battizio. In garage. Sopra, in casa sua. Sicuramente sarebbe andato sull'antenna, o è giù su un campagna scusa. No, l'antenna, ma non aveva sistemata. E cosa c'ha qui adesso? Ma tutti con l'entrata. Seguro. Sì, io però già dici che non c'è la campagna. Buonasera, buonasera a Torre, buonasera a Torre, a Zinco. Viene scusato tutti e due, avanti. Ciao Bacchi, mi hai sentito, vai tu. Andiamo bene. Sì, anche al Marmolino si è sentito tu. Ah, si mai piatto, si mai dormito. Marmolino si va in piscina. C'è salto. C'è un caldo di piscina che scende. Adesso non è solo un impulso. Buonasera Casa Maria, per tanto Casa Maria è l'ascolto, per tanto Maria sta facendo l'ascoltone. Bene, bene, per controllo, come vedi per me, di più di cuore. Sentiamo, ok, riprendi il tipo. Ciao Bacchi, buon quedetti, buon tutto, buona cena, ce la riascoltiamo domani, dai. Vai Tore, fai vedere, fai chiamata a Luca se c'è. Attenzione Luca, ma ti chiedi una cosa, guarda che ti dice, non ti dice che non è. Hai ci abbiamo domani. Ciao, saluto a me a tutto, se non è troppo. E ciao a Franco, ok, ciao. Sì, certo, buon quadretto anche a te, a domani, dai. Luca? Fra? Eia? E beh? Boh, a me non è mi sono allontanato un po' perché stavo facendo cose. Ma sei senza compressore? No, ce l'ho, ma sto usando il microfono originale. Ah, guarda che uscivi bene con l'altro, Aspetta. Cazzo, ci vedi se mi ha un microfono male. Con questo esco bene. Sotto una cardosa. Vabbè, Luca dice di no. Solo che c'è quel problema lì che è gracchia. Quando stai modulando è gracchiante la modulazione. È gracchiante la modulazione? Perché? Non lo so, però aspetta che ti faccio il coso e te la faccio sentire. Vabbè, poco fa l'hai fatta ma non si sentiva. Prova. Lei è gracchia, tu senti la ventola della radio, senti, perché quando io schiaccio il microfono, lei aumenta un po'. No, adesso è andata bene, non è gracchiato. Allora, magari secondo come tocco il microfono. Lo sai, dipenderà da lì allora, quando schiacci. Infatti, vedi, se io lo lascio così, adesso, visto le mani, io il microfono non ce l'ho, non che gracchia. Probabilmente io come muovevo la mano. No, sta andando bene, io ti sento bene adesso. C'è il compressore, più l'ho messo a 7, non mi sta andando bene. Adesso fai stacca e attacca il compressore. Ehi K, vedi così, adesso è attaccato. Così è attaccato. Così è di nuovo attaccato, vedi a vedere. A voglia, cazzo venne di differenza. Già va bene, dai, già va bene. E poi per quello non è che devo parlare sempre con questo. No, no, va bene, fra. La modulazione va bene. Per me è Super 5. K, sì. Che cazzo, Luca, non c'è la Luca qua. Basta, segnale 3, chi sì? Guarda, ho caricato, guarda, perché sono in accordo, sono dal camper, come mi stai ascoltando, guarda. Caffa, ciao! Sei basso, sei 2-3 del radio, segnale scellante a 5. Basta un radio, so. Eia. Ok, guarda, sono soccorso. Come te la resta, guarda la radio? Guarda, sei... oltre che stai innescando, si è anche rovinata la radio. Adesso mi gioco. No, fra. Vedi un po', 1, 2, 3, 4. Adesso ha migliorato un po'. Vedi adesso, 1, 2, 3. È buona, ma è bassa, molto bassa. Così mi gioco. Sempre bassa è la radio. Ecco, stai parlando, non ti ascolto più. Prova, 1, 2, 3.